Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 9 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero anche oggi insieme per parlare di qualcosa che resta con un grande fascino. È qualcosa che molti di noi hanno, è qualcosa che si ama e si odia. In questo momento non so parlarne quanto sia giusto, no? Nel senso che c'è la moda adesso delle due ruote, di andare a piedi, del salutismo, del verde, e allora invece l'auto inquina, quindi non se ne può parlare. In generale dell'auto è un po' diventata quasi un tabù, e allora per quello oggi volevo parlarne, anche perché a Milano c'è la tanto discussa domenica a piedi e ogni volta, ogni domenica se ne parla, qualcuno scrive, di dice, insomma, già settimana scorsa Fazio aveva detto la sua su questo e ha scatenato una sorta di polemica. Io non voglio farla oggi, però proprio per questo e oggi voglio parlare dell'auto, perché l'automobile comunque resta qualcosa che ci appartiene, che fa parte della nostra quotidianità nel bene e nel male, e che comunque ha un fascino tutto suo. Insomma, esiste, è qualcosa che può anche colpire il cuore, l'anima, e che insomma fa sognare. Non possiamo dire di no, lo dice anche insomma, la Formula 1, che continua a essere seguita e si tifa. Abbiamo nel cuore grandi marchi italiani e quindi vogliamo parlare di automobili con le curiosità che appartengono ovviamente al riposo del guerriero e anche con un ospite in studio che tra poco vi presenterò. Prima però voglio ricordarvi anche l'appuntamento alle 11:45 con il nostro gioco che sta di portarvi a casa i biglietti per andare a vedere la mostra di Manet a Venezia. Si intitola Manet Ritorno a Venezia. Ammesso che riusciate ad associare la canzone che sto per farvi ascoltare a una critica che è stata mossa proprio a Manet riguardo al suo, uno dei quadri più famosi che ha fatto, che è stato Colazione sull'erba. Ecco la canzone. E gli orinali messi sotto i lenti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i lenti, per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. Questa è una famosa canzone di Battiato, che è posata di Ivanievski, e questa canzone ha a che fare con una critica che è stata mossa proprio a Manet quando i critici hanno valutato Colazione sull'erba. Vorrei capire di quale critica io stia parlando. Dovete chiamare l'800 24 0024 per prenotarvi e poi si giocherà alle 11:45. Prima di parlare, entrare proprio nel mondo delle automobili, lo facciamo anche con i vostri messaggi al 349 238 6666, se vi piacciono, se vi affascinano, se le sognate, se le odiate, come le volete, se avete qualche curiosità. Mi è venuta in mente questa canzone molto divertente di Gaber. Alla capote in grigio perla, tutta in seta gloria, ma è molto seria, sul radiatore sopra il tappo tu vedrai la statua della vittoria. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo. Devo dire che la raffinatezza di mettere il clacson col podi è veramente straordinaria. Giorgio Gaber, il torpedo blu, era un'auto insomma affascinante ovviamente. Ciao Marco Pascali, buongiorno, buona domenica. Ciao Stefano, ciao a tutti. Giornalista di Top Gear, un grande esperto di automobili da sempre. Tu giocavi con le macchinine da piccolo? Assolutamente sì, sì, sì. Appena ho avuto la possibilità di riconoscerle, penso di aver iniziato a lanciarle contro qualunque tipo di oggetto e soprattutto a sfidarle. Senti, ma ecco, te l'hanno, non dico imposto, però ti hanno cominciato a regalare le macchinine, così te ne sei appassionato, oppure naturalmente tu sei nato e hai visto già le quattro ruote nel tuo DNA? Com'è successo? Ma penso perché che sia stata la combinazione delle cose in realtà. Poi insomma mio papà disegnava ogni tanto delle auto, quindi mi sono subito appassionato a questo mondo, che poi con gli anni chiaramente e grazie alla fortuna, al lavoro, insomma, è diventata anche una professione, quindi riesco a seguirle e a raccontarle. Che auto hai? Allora, oh, no, che auto vorresti avere? Facciamo così. Dai, no, perché... non rispondo a nessuna delle due auto. Perché tu non puoi. È, vero, è difficile poi dopo parlare di auto. Sì, sì, è vero. Dichiarando le proprie preferenze. Non posso farti, non potrai dire a microfoni spenti e poi sto gli auto di aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Allora, Marco, l'auto oggi com'è vista? In generale, secondo te? Questa è una bella domanda, perché insomma si deve essere un po'... Siamo un po' degli psicologi per rispondere a questa domanda. È ancora assolutamente affascinante, lato, spaventa, sì. Inquina, non la voglio. Da un lato sicuramente rappresenta il sogno di... probabilmente non più tanto di mobilità quanto... lo è stato in passato, ma il sogno di possedere un oggetto incredibile. Okay? È ancora uno status, sicuramente. D'altro canto ci sono dei problemi che sono oggettivi e contingenti, legati all'ambiente, quindi all'inquinamento e quant'altro, però mi sento di dire, questo non per portare l'acqua al mulino del mondo dell'auto che non ne ha bisogno, che le auto oggi inquinano molto meno. Quindi questo è un dato di fatto, basta vedere i dati statistici, sì, e quant'altro. Quindi i progressi sono stati fatti, penso che l'auto talvolta sia incriminata di cose non sempre aderenti alla realtà, e penso soprattutto che ancora oggi sia un grandissimo veicolo del sogno, della passione e di un certo modo di vivere anche piacevole, che non si deve demonizzare, non ci si deve vergognare a poter dire: mi piacerebbe andare in Costa Azzurra con una bella decapotabile, magari con una bella bionda, se proprio vogliamo fare questo legame auto-donne c'è. È inevitabile, assolutamente. Non dobbiamo vergognarci di dire queste cose, perché in fondo sono dei bellissimi oggetti, e soprattutto quando si entra nel mondo delle auto da sogno, siamo a livelli veramente di sculture, quadri, quindi sono a loro modo delle opere d'arte, e io mi sento che anche in questo senso debbano essere rispettate. Ecco. Senti, il pubblico è ancora prevalentemente maschile, ma il pubblico femminile invece? Sì, è vero, questo tipo di sogno è probabilmente prevalentemente maschile. Di sicuro le donne negli ultimi anni hanno condizionato molto il mercato, perché giustamente e finalmente riescono a scegliere l'auto con indipendenza, a seconda dei propri gusti, e molte case automobilistiche, molti produttori hanno offerto loro dei prodotti particolarmente giusti per le loro esigenze, e quindi le donne scelgono l'auto che più gli piace, né più né meno come fanno gli uomini, ecco. Anzi, molto spesso io dico che nell'acquisto dell'auto di famiglia è più importante il parere, sì, della donna che non... Finalmente un sogno bipartisan, insomma, da quel punto di vista, meno male. E il sogno, appunto, quindi cominciamo a sognare, lo facciamo con Marco Macauso. Buona domenica. Buongiorno. Marco, buondì. Consigliere delegato di Mille Miglia, che è la società che organizza appunto Mille Miglia quest'anno. Si parte da Brescia, dico bene? Sì, si parte da Brescia giovedì sera, sì, e direi che siamo assolutamente in linea con il discorso del sogno che abbiamo appena fatto, perché è un sogno che si svolge da Brescia a Roma e ritorna su Brescia. Quindi passando attraverso mezza Italia e portando questo spettacolo meraviglioso nelle strade, nelle piazze di tantissime città italiane. Ecco, quante auto vedremo? Dunque, quest'anno abbiamo un numero record, perché abbiamo avuto, pensate, 1575 richieste, sì, di iscrizione. Da queste abbiamo, diciamo, distillato un numero di 415 vetture, che è il numero più alto degli ultimi anni, e sono tutte vetture naturalmente del periodo che va dal 1927 al 1957, che è il periodo in cui è stata corsa la Mille Miglia storica. Ecco, Macaus, perché più degli altri anni questo ha avuto così tante iscrizioni? Cosa sta succedendo? Ma non, diciamo, non c'è una singola ragione, sì, specifica. Diciamo che c'è una grandissima tradizione. Questo è il trentesimo, trentunesimo anno in cui viene fatta questa rievocazione, quindi anno dopo anno è una cosa che nel mondo degli appassionati si alimenta e diventa sempre più importante. È sicuramente l'evento di auto d'epoca più importante del mondo, Ed è vero che in un momento in cui moltissimi raduni, eventi, gare hanno dei problemi a, come dire, ad attirare partecipanti, in realtà noi abbiamo avuto una richiesta elevatissima. Diciamo che l'Italia attira moltissimi, il 70% dei partecipanti sono stranieri e c'è una magica, come dire, mix tra il piacere della storia dell'automobile e il piacere di vedere dei posti che altrimenti non si vedrebbero, non si potrebbero vivere così. Certo, qui vince assolutamente il sogno, insomma, il ricordo, l'immagine che si ha di un'Italia di un certo tipo, di una Roma anche di un certo tipo, e quindi accompagnata anche da quelle auto. Forse si vuole un po' rivivere questo, no? Quell'atmosfera. Sì, in parte sì, tenete conto che chi ha questa passione, chi ha queste automobili, che possono essere automobili molto importanti, di marchi blasonati, ma molte sono delle normalissime vetture utilitarie di quegli anni con cui si correva la domenica e si andava in giro di settimana. Però una vettura di quegli anni, come pure una motocicletta, una Vespa, una Lambretta, sì, è una macchina del tempo, perché ti fa rivivere delle atmosfere di un certo genere, e effettivamente non ci sono nel mondo moltissimi eventi che ti permettono di guidare quelle vetture sulle stesse strade e nello stesso modo in cui si faceva allora, perché le manifestazioni in pista hanno delle piste completamente modificate, e tutte quelle che avvengono in paesi che non hanno una storia di corse su strada come l'abbiamo noi, diciamo, avvengono su percorsi magari bellissimi ma che non hanno nessuna tradizione alle spalle. Quindi questa è una delle unicità della Mille Miglia. Ma Caos, l'auto che vorresti nel tuo garage delle Mille Miglia, cioè una fra quelle partecipanti? Ah, questa è la domanda più difficile come veramente con Marco, non c'è risposta. Intanto ci vorrebbe un garage di 2-3.000 metri quadri, però diciamo che la vettura assoluta è la Mercedes 300 SLR con cui Stirling Moss vinse nel 1955, anche perché ottenne un record assoluto. Pensate che fece la Mille Miglia, ripeto, su strade normali da Brescia a Roma, a Brescia, senza fermarsi, in una media di 160-165 km all'ora. Quindi è un record che non è mai stato battuto, e quindi si può dire che quella sia forse l'auto assoluta della Mille Miglia, non lo so. Grazie Macaus, ti posso dire una cosa, che prima della trasmissione Marco Pascali, che è qui con me, mi dice: vai a vedere bene Stirling Moss perché voglio parlarne. L'hai fatto tu, e quindi sapevamo. Bravo Marco. Hai citato la persona della quale avremmo anche parlato. Grazie ancora, buona domenica, e voglio grazie Macaus, voglio ricordarvi il sito per andare a tutte le informazioni e quindi anche le tappe della Mille Miglia per andare a vedere passare le auto, www.mille, è scritto in numero, miglia.eu, questo è il sito. E allora Marco, oggi l'auto è ancora molto costosa, perché? Oppure non è per niente costosa in realtà, anche se ci sembra così? Semplifichiamo i concetti, sì, vai. Di costi e prezzi. Certo. Diciamo che ci sono delle auto da prezzo, e quindi quelle in realtà sono anche molto poco costose. Ci sono delle auto che ormai hanno raggiunto una maturità meccanica tale per cui sono da ritenersi affidabili, quindi assolutamente da acquistare, che hanno prezzi che si aggirano dagli 8.000, anche meno, dipende dalle offerte che ci sono. Poi c'è tutto l'aspetto del commerciale che segue altri filoni. Comunque sì, diciamo, le cifre possono essere queste: fino ai 15-16.000 euro si possono trovare delle auto anche lunghe 4,50 m, comode e pratiche da usare. Poi c'è tutto il discorso invece delle auto più moderne, quindi quelle che costano magari qualcosina in più, che sono tipicamente legati magari a dei marchi con più tradizione, che quindi cercano di portare innovazione nell'offerta prodotto, che hanno dei contenuti nuovi, inediti, e soprattutto spesso legati alle prestazioni, legate all'efficienza, quindi alla riduzione dei consumi, e alla sicurezza. La sicurezza, che detto così è un argomento molto noioso, io invece lo trovo estremamente pratico. È importantissimo, però. Assolutamente, perché tu immagina ad esempio il cruise control, che è, che non lo usa oggi col tutor in autostrada, ci sono dei sistemi di sicurezza attivi che rendono attivo questo cruise control, quindi ti permettono, oltre a mantenere una velocità che tu hai costante, impostato, sì, anche una distanza di sicurezza dall'auto che ti precede. Questo ti permette di fare un viaggio in tutta sicurezza, immagina situazioni magari climatiche dove al posto del sole c'è la nebbia o la pioggia, quindi comunque permettono di anticipare un minimo di tua distrazione o comunque di imprevisto, e d'altro canto di viaggiare comodi, quindi sicurezza e praticità. Questi contenuti, insieme a quelli delle prestazioni di cui si parlava, ho accennato, insieme a quelli della riduzione dei consumi, sicuramente hanno un piccolo costo aggiunto. Però è da valutare, tu dici. Però è da valutare, assolutamente, perché in realtà è un po' il sale di queste auto moderne. Si dice che non abbiano un'anima, probabilmente sì, non sono così, se vuoi, sincere nel loro pensiero, nella loro realizzazione, come possono essere stati dei mostri sacri, come pensa ai capolavori, no? La 500 di Giacosa, la Mini di Sigonis, quindi le icone vere mondiali, le Ferrari, le Lamborghini, cioè stiamo parlando di veramente capolavori. Quella è la storia, quelli sono state le basi su cui poi si è costruito. Sì, poi c'è la quotidianità. Esatto, dire. Poi c'è la quotidianità e la modernità. Quindi sì, se riusciamo a capire che la modernità è fatta di progresso e di tutte queste piccole innovazioni che rendono interessanti le auto moderne, sicure, veloci, economiche, io trovo che le auto siano ancora molto interessanti e abbiano molto da dire. E quindi tu dici il cuore lo troviamo da quel punto di vista. L'importante è sceglierle, perché non è facile, sicuramente, esatto, non è facile. Si deve informare molto bene. Ti porteremo dietro ogni volta che andremo a scegliere una macchina, una volta nella vita, due forse. Il riposo del guerriero. Allora, stiamo parlando di automobili, arrivano tanti vostri messaggi, qualcuno dobbiamo anche verificarlo, perché ho fatto anche una domanda a Marco che mi ha guardato con gli occhi stronati, adesso lo verificheremo. Allora, intanto Nicola scrive: prima di iniziare la trasmissione dovete fare una premessa, tutti gli accessori e i comfort delle auto dovrebbero presupporre strade adeguate che consentano una guida piacevole, cose che in Italia è rarissimo trovare. Ecco anche perché tanti non acquistano più le auto, è impensabile che non prendiate coscienza di questo problema. Ecco, è vero, secondo te? Sì, sì. Tanto la Mille Miglia si andava sugli sterrati, giusto? Perché le strade asfaltate... Beh sì, in parte, esatto, in parte erano strade di terra battuta. Sì, è vero che ci sia in Italia un problema magari con, soprattutto in alcune zone, con gli asfalti, questo è vero. Quello che io trovo e quello che cerchiamo di fare anche come giornale è proprio creare la cultura degli itinerari. Nel senso che è innegabile che l'Italia abbia la varietà di scenari e di paesaggi incredibili, dove abbiamo avuto la fortuna di avere delle gare come la Mille Miglia, quindi in realtà esiste un forte legame tra territorio, auto e corse, e questa è anche la storia dei grandi costruttori nazionali, e noi dobbiamo recuperare esattamente queste strade, quindi farle conoscere. È vero quello che dice l'ascoltatore, è vero anche che ci sono dei percorsi dove le strade sono belle e si riesce ancora a guidare. Posto, è chiaro che tutto quello che è l'heritage, la memoria, il sogno delle auto che furono dei piloti grandi erano fatte su strade che non ricordo avessero limiti. Oggi certo, qualcuno c'è. No, quindi... tanto un po', questa discussione mi fa un po' sorridere, Nicola, perché io sto pensando oggi la domenica a piedi di Milano, no? Io vado in bicicletta normalmente, e per me vabbè, quindi ok. Il problema è che Milano sì, tutta in bici, ma è piena di pavé, e il pavé con la bici è rischiosissimo, davvero, è la cosa più rischiosa del mondo, quindi è la stesso discorso, sì, Milano in bici, però togliete il pavé o fate l'asfalto per i ciclisti, perché a parte che te la devi poi rimontare la bicicletta, una volta che sì, hai fatto un chilometro in pavé, le viti sono tutte nel pavé, devi andare a cercare, quindi devi rimontarti la bici, e poi se prendi per caso i binari, ecco, quindi vabbè, voglio dire, quindi questa è una discussione che potrebbe essere fatta non solo per le auto. Marcello Minerbi, buona domenica. Ah no, è caduto, ecco, scusami, quindi dopo lo ripeschiamo. Mi stavano facendo tutti i gesti, non capivo perché. Adesso vi spiego, di là in regia c'è Filippo Aureggi che fa sempre gesti, che commenta tutto quello che io dico, per cui non avevo capito che si riferisse alla telefonata, pensavo si riferisse alla bicicletta. Senti, allora, no, un altro messaggio dice, stavamo parlando dei fendinebbia, perché qualcuno dice che addirittura, cioè, la nuova Volvo dovrebbe, ha sacrificato, secondo il dottore, i fendinebbia anteriori per installare un nuovo tipo di servostezzo. Non è proprio così. Non è proprio così. Non è proprio così. Sicuramente la, nuova, la Volvo come marchio è molto attento alla sicurezza e ha annesso nel frontale dei radar e della strumentazione che serve proprio a proteggere le persone. E addirittura la Volvo ha presentato questo airbag per il pedone, che insomma è un airbag che non ci si... questo è molto interessante. È molto interessante, che si spera di non dover mai utilizzare, però... però non è che ha messo degli airbag per il pedone e ha levato visibilità, sì, altre cose, dici. Quindi airbag per il pedone cosa significa? Che in caso purtroppo di cioè vai addosso un pedone e si gonfia un airbag all'esterno. L'hai detto tu. Comunque così il concetto funziona. È quello, sì. Esatto. Ma ha un'utilità, perché comunque riesce a sì, cioè, ricordo, sicuramente, sì, ma sto pensando al meccanismo che è anni che le case automobilistiche, esatto, stanno sviluppando dei frontali con diciamo la possibilità di attutire l'eventuale colpo per il pedone. Questa è la soluzione più, più innovativa per il momento. Marcello Minervi, buona domenica. Ciao, buona domenica anche a te. Ciao Marcello. Abbiamo parlato di sogno prima e volevo ritornare perché poi Marco diceva grandi marchi e quindi i grandi marchi sono Ferrari e Lamborghini, almeno per quanto riguarda l'Italia sicuramente. Ci sono i 50 anni della Lamborghini che si festeggiano, vero sì. Marcello? Sì. E questa rivalità, no, fra Ferruccio e Enzo c'era veramente o non c'è mai stata? Ma guarda, in Emilia la rivalità tra costruttori c'è sempre stata. Ferrari, che era emiliano modenese, sì, lasciata l'Alfa Romeo, mise in piedi la scuderia Ferrari a Modena per far dispetto, tra virgolette, ai Maserati, che erano a Modena. A Modena c'era anche Stanguellini, che nel suo piccolo faceva dispetto ai Maserati. Lamborghini non voleva far dispetto a nessuno, ma siccome era un uomo d'affari intelligente, voleva fare affari. Sì. È una grande balla la leggenda che lui volesse mettersi in competizione con la Ferrari. Lui portò la vettura, una sua Ferrari, a ripararla a Maranello. Gli fecero pagare una cifra che lui trovò esorbitante, che un ingegnere della trattore gli confermò che era troppo elevata. Allora lui disse: ma allora io forse riesco a far soldi con queste cose qua. Ed è partita da lì la Lamborghini, è partita da un business. Incredibile. Ecco, ma questi dispettini che gli altri si facevano, in cosa consistevano? Questi, questi dispettucci che gli altri si facevano, in cosa consistevano? Sai, consistevano in, per esempio, spargere ad arte a Modena le voci che Tizio era fuori a provare un motore speciale con. Allora tutti fuori a cercare di seguirlo per vedere dove andava. La Ferrari batteva le zone dell'Appennino, mentre la Lamborghini batteva la Futa. A proposito di Futa, guarda che Bob Wallace e Paolo Stanzani con la prima 350 GT fecero lo stesso tempo di Stirling Moss con la Mercedes lì, su quel pezzo lì. Ah, ecco. Quindi, ci siamo un po'. Minervi, e l'Italia riesce ancora a reggere per quanto riguarda i suoi marchi automobilistici nel mondo? Questi tre in assoluto direi sì, proprio di sì. Quindi ancora dobbiamo tenerci ristretti, insomma. Ma non ce li può portare via nessuno, chi è che ci porta via questa Non lo so, guarda, è un periodo questo. Bisogna stare attenti. Qualche cinese o qualche giapponese, bisogna stare attenti a tutto. Grazie Marcello Minervi, ciao. Direttore di Top Gear, grazie, buona domenica. Ciao. Eccoci, no, appunto stiamo parlando della sicurezza mi dicevi appunto di questo airbag per i pedoni, perché comunque è molto che si sta facendo una ricerca anche in questo senso, quindi non soltanto all'interno dell'auto, ma cercare di dare una mano anche all'esterno, perché poi purtroppo le cose succedono. Sì, assolutamente, e in questo senso purtroppo mi vorrei soffermare poco su questo argomento, sì, perché so che è considerato noioso. Io lo trovo molto interessante. Beh, invece, esistono i pedoni, giusto? Esatto, okay, cioè, sì. Esiste questo aspetto anche, è vero, poi c'è l'aspetto di fascinazione, ma lo toccheremo sicuramente nel corso della puntata. Però credo che gli ascoltatori siano anche interessanti a capire verso dove si sta andando da questo punto di vista. Ma, esatto, proprio per questo, in questo senso ti volevo dire che oltre all'airbag per il pedone, quindi a tutte le sicurezze passive, quindi vuol dire che purtroppo la cosa è già successa, le case auto e i produttori di componentistica si stanno muovendo molto verso l'aspetto attivo della sicurezza, che è quello in realtà che interessa di più, perché vuol dire che si riescono a prevenire gli incidenti. Cioè l'auto intelligente da quel punto di vista, che cerca di prevedere, esatto, e quindi che di riconosce la sagoma umana, come ad esempio sempre la Volvo. In questo loro sono, devo dire che sono molto all'avanguardia, ma anche altri costruttori si stanno affacciando, perché la tecnologia alla fine è quella. Riconoscono la sagoma umana e nel caso di distrazione completa del pilota, l'auto interviene frenando, quindi non investe il pedone. Qui siamo un po' livelli, non so se però è molto interessante. Ma è assolutamente interessante. Tu ti ricordi Supercar, no? Sì. E c'era Kit che era programmato per non investire l'essere umano, e quindi insomma. Quindi si sta arrivando, questa, si sta arrivando, si sta arrivando quello che era nell'immaginario. Quindi chiamalo arrivando. Più sogno di così, scusami, ma l'abbiamo solo, sognato, sta arrivando. Non solo, queste sono auto che hanno un costo comunque da auto media, di famiglia. Cioè, acquistabili, questo è il senso. Acquistabili, ma ancor più acquistabili sono le utilitarie. E nel mondo delle utilitarie, quindi facciamo dei nomi, giusto per intenderci, le Panda, ok? Stanno arrivando i radar antitamponamento, che sono un pelino meno evoluti, quindi non riconoscono ancora le sagome delle persone, però riconoscono se l'eventuale distrazione del conducente potrebbe portare a un tamponamento, e quindi sotto i 30 km orari, se lo ricordo male, lei blocca l'auto, frena per te. Ecco, poi vedremo perché, e poi adesso tu hai parlato di un'auto appunto facile, ma ci sono anche auto difficili da guidare, tipo le Ferrari eccetera, però come ormai sono state guidabilissime grazie proprio all'elettronica, ne parliamo. Allora, abbiamo parlato di auto così, parliamo di auto invece inarrivabili da tanti punti di vista. Gioacchino Acampora, buona domenica. Buongiorno. Della carrozzeria Castagna, che è una delle più antiche d'Italia, perché voi avete a che fare con automobilisti particolarmente ricchi in giro per il mondo, e qualcuno anche molto famoso, e credo che molti abbiano delle stravaganze che vogliono inserire nelle loro automobili, o mi sbaglio, Acampora? Sì, beh, diciamo più che stravaganze, sono desiderosi di sogni che le vetture di serie, anche le ipercar e supercar, non sono attrezzate per risolvere. Non a caso la Castagna, nata nel 1849, è divenuta poi famosa come la fabbrica nei sogni negli anni 30. Noi cerchiamo di realizzare tutto ciò che il mercato non propone, e spesso questi clienti hanno il garage pieni di vetture o sono persone che ormai hanno sperimentato tutto, per cui desiderano, hanno una cultura automobilistica molto forte e desiderano costruirsi una vettura su misura, realizzando ciò che non sono mai riusciti a soddisfare. Ecco. Facci qualche esempio, perché poi la cosa curiosa è avere degli esempi. Se puoi fare anche i nomi, va bene, se non li puoi fare, facci solo l'esempio e basta. No, meglio fare solo gli esempi. Immaginavo. Anche perché, ma diciamo che queste persone hanno uno stile di vita particolarmente raffinato, ecco. Sì. Per cui per noi, almeno per me, mortale, a volte si fatica un po' a capire quando una persona, per esempio, vuole portare i propri figli dalla villa fino al porto dove gli fa prendere un tender riva che li porterà poi alla barca, no? Sì. Questo è successo negli Hampton in America, e un signore appassionato di 500 ne ha ordinate 4 alla fine, e una di queste 500 gli serve per portare nella propria villa i figli a prendere la barca. Vabbè, un problema però serio. I figli sono piccolini, esatto, un problema serissimo, è un problema di liturgia, chiamiamolo così, di stile di vita, per cui il problema era arrivarci con una vettura stile Onassis, quindi una 500 anni 50, di quelle che si vedevano una volta a Monte Carlo, a Capri, e i bambini sono piccoli e quindi voleva farli salire a bordo, per cui noi gli abbiamo inserito una scaletta elettrica che esce, illuminata, e che fa in modo che i bimbi possano accedere ai posti posteriori, perché questa vettura nasce con, si chiama Tender 2, nasce solitamente con soli due posti anteriori. Altre persone che desiderano bere lo champagne fresco, il proprio vino preferito, e allora abbiamo creato un chiller che si comanda tramite un monitor touch screen. Ecco, chiller sta per raffreddatore, giusto? Lo traduco in italiano, sì. Esatto. ed è un frigor dove si inserisce la bottiglia e porta la temperatura del vino alla, a quella ideale di... Ecco, io tolgo il bocchettone laterale della Smart dell'aria condizionata e ci infilo la lattina per tenerla fredda, funziona. Ecco, ognuno ha il suo stile, è meno elegante sicuramente. Marco, cos'è che dicevi, scusami? No, che io tra l'altro gran parte di queste auto le ho viste ed è vero, cioè... lo so che è vero, cioè, non ti chiedo i costi a Campora, però insomma saranno esorbitanti, immagino, perché è tutto fatto a mano. Sì, no, i costi sono in realtà, io dico sempre, una questione di scelta. Beh, no, sì, certo, però, per chiaro. Esempio, una nostra 500 costa come un Audi A8 o A6, per cui in realtà non è impossibile, è proprio una mentalità completamente diversa. Ecco, a Campora ho il traffico, però volevo farti una domanda, poi mi rispondi dopo il traffico, che è questa: c'è qualcosa che vi hanno chiesto e che non siete riusciti a realizzare perché, insomma, è realizzabile o no? Dimmi solo se sì o no, poi mi dici che cosa. Sì. Il riposo del guerriero. Giochina Campora della carrozzeria Castagna, che nasce nel 1800 a Campora, scusa non mi ricordo la data. 1849, ecco, facevano le carrozze a cavallo. Eh beh sì, certo, è che si sono tramutate in quello che vediamo oggi e che abbiamo visto nel tempo. Ecco, mi dicevi una cosa che non sei riuscito a realizzare, che non siete riusciti, insomma, come carrozzeria. Sì, non siamo riusciti a realizzare causa guerra. Sì. Nel senso che c'era un nostro cliente, il figlio di un nostro cliente, che poi insomma è stato impegnato in una serie di battaglie e quindi poi non l'abbiamo più visto. E niente, lui voleva realizzare una macchina con una pianta a rombo, nel senso voleva mettere una ruota anteriore centrale, una ruota posteriore centrale e due ruote sui lati. Sì. Abbiamo fatto un piccolo studio e per quanto possa sembrare bizzarra poteva essere anche una buona idea, specie per l'ingresso in vettura. Sì. Però insomma non ne sapremo. La vedremo in un film, immagino, esatto, del futuro. Vedremo una cosa del genere. Grazie Gioacchino Campora, buona domenica. Grazie. Grazie, grazie davvero. Orazio Pagani, buona domenica. Buona domenica anche a te. Anche a voi. Allora, Zonda, tanto per dire un nome, l'auto, produrrete anche un'auto a rombo a questo punto? Orazio Pagani, con una ruota davanti, una ruota dietro e due ruote laterali, o non è nei vostri progetti? Non lo so, può darsi, cioè noi siamo dei creativi. Infatti per quello lo dico. Per quello lo dico. Il cliente un giorno desidera e sogna una macchina con 8 ruote, proveremo a fare anche quello. Ecco, quindi dalle supercar alle ipercar, ad automobili, raccontaci qualcosa dell'ultimo, anche perché Marco io non conosco, quindi è Marco che può farti le domande per accompagnare gli ascoltatori verso le auto che producete voi. Beh, io ho in mente l'auto in sé, la posso vedere, ma non ne conosco il contenuto, diciamo così. Orazio Pagani è argentino e ha una storia incredibile che gli appassionati conoscono molto bene, e lui a suo modo ha traghettato il mondo delle supercar nel mondo delle ipercar. Sarebbe bello che lui ci raccontasse come ha fatto, perché l'ha fatto con l'auto che ha seguito, la Zonda, che è la Huayra, giusto Orazio? Sì, diciamo che questa definizione di ipercar è nata da voi giornalisti, coincidentemente con tutto il mondo, perciò evidentemente questa Huayra ha così trasmesso in qualche modo un concetto, non dico nuovo, però alcuni contenuti che poi vi hanno portato a definirla in questo modo. Ecco, ha veramente tantissimi cavalli, oltre 730, l'aerodinamica attiva. Come si trasferiscono questi contenuti a un automobilista normale? Perché poi in fondo i tuoi clienti non sono tutti piloti. Infatti questo è un po' il tema che uno deve tenere sempre presente quando progetta una macchina di questo tipo. Già quando stavo progettando la Zonda negli anni 90, ero convinto che, o pensavo che sarebbe stato possibile vendere questa macchina che sarebbe costata tre volte quello che costava un'altra supercar, sì, solo a persone di, diciamo così, di una certa età, che sono quelli che si possono permettere di spendere quella cifra, questi soldi, no? Questa cifra. Allora l'alternativa era fare una macchina molto molto intuitiva, molto semplice da portare, da guidare, una macchina che ti aiutasse, che ti raccontasse, cioè una macchina molto comunicativa, ecco questa è la descrizione, ecco, quindi che noi diamo. La chiave è quella di avere una macchina con molti cavalli, con tanti, una prestazioni pazzesche, però facile da governare, quello è il senso, e quindi poi sì, certo, a parte il costo dell'auto in sé, però comunque è guidabile da tutti, tra virgolette. Sì, ok, non è quello che porta un cliente a comprare una macchina di questo tipo, cioè in fondo una Pagani, una Ferrari, una Lamborghini sono delle auto, delle macchine inutili se uno le guarda come automobili, perché ci sono, certo, macchine che costano 10 volte in meno e fanno il loro dovere, e fanno la stessa cosa anche meglio, chiaro, forse. Perciò il tema era cercare invece di dare a questo oggetto, oltretutto trattandosi di una macchina nuova che nasceva in un'area come quella di Modena, dove c'è la storia, il mito delle supercar, perciò Ferrari, Lamborghini, Maserati, insomma, e cercare di dare un contenuto. Allora il contenuto era la unicità, ovvero, sì, cercare di fare che questa macchina fosse bella o brutta, ma che comunque avesse fosse unica. E perciò diciamo la mia filosofia, quella filosofia della compagnia è un po' ispirata ai concetti di Leonardo rinascimentale. Leonardo diceva che arte e scienza potevano camminare insieme, no? Allora noi abbiamo cercato proprio di seguire questi consigli e introdurre arte all'interno della macchina. Non voglio vanificare la parola arte, ma voglio utilizzarla come un po'... Guarda, Orazio, sei chiarissimo, è giusto che sia così, insomma, arte è assolutamente usata a proposito, perché di questo si parla, è una delle caratteristiche chiavi delle auto che hanno avuto poi grande successo e che riescono ad affascinarci. Grazie Orazio Pagani, buona domenica intanto. Buona domenica anche a voi. Allora, Marco, intanto arrivano tanti messaggi. Qualcuno vorrebbe i rostri alla James Bond, però credo che non vengano prodotte auto di questo genere, però si non possono più. Sempre non più. Una volta in effetti c'erano i... Sì, c'era anche l'accessorio, si poteva montare sul paraurti di acciaio. E poi, vabbè, la Saab rinasce, hanno chiesto. Io non... Ma le domande chiave non può rispondere, Marco. Non mi piace parlare delle sventure delle auto. C'è il GR, ci sentiamo dopo. Riposo Ligurio, parliamo di automobili. Il riposo del guerriero. 17 minuti, ancora buona domenica. Da Stefano Gallarini continua il riposo del guerriero. Ci stiamo parlando di automobili insieme a Marco Pascali, che è giornalista di Top Gear, che è un mensile di automobili, ovviamente. E tra le tante domande che sono arrivate, ce n'è più di una che riguarda l'ecologia, cioè il lato ecologico dell'auto di oggi, Marco. Ma il lato ecologico dell'auto di oggi è legato... Cioè l'attenzione ovviamente verso... È legato sostanzialmente alle basse emissioni, sì, ai bassi consumi, quindi all'efficienza dei motori, all'efficienza della macchina automobile in generale. L'auto elettrica, l'auto a idrogeno, ecco, l'auto a olio di colza. Sì, esatto, lì ci sono poi tutte le varie soluzioni. Si prevede che tra una decina d'anni il bouquet di quelle che saranno le energie da utilizzare nelle, sì, automobili sarà molto più variegato rispetto a oggi, quindi sicuramente ci sarà una percentuale di auto ad alimentazione elettrica, piuttosto che auto ibride, piuttosto che auto con altri tipi di alimentazione, soprattutto a livello globale in funzione di quale parte del mondo ci si trovi, no? E quindi, sì, quali abitudini anche ci siano. Ma la cosa interessante è che sicuramente l'evoluzione degli ultimi anni ha portato a una certa efficienza dei motori tradizionali, quindi a combustione interna, che sono quelli che ancora per almeno 10, 15, 20 anni ci traghetteranno nella prossima mobilità. E questo grazie all'arrivo di nuove tecnologie che hanno permesso appunto di ottimizzare ogni singola goccia di carburante. Quindi anche motori molto potenti consumano poco. Sì, sì, ci sono soluzioni nuove come ad esempio il taglio dei cilindri, ad esempio delle auto con molti cilindri a delle velocità costanti oggi sono in grado di essere gestite da centraline che tagliano i cilindri in eccesso, quindi non fanno bruciare loro della benzina che sarebbe sprecata, pur mantenendo l'auto a una certa velocità, piuttosto che i turbo nei motori a benzina permette di ottimizzare oggi più che ieri, dove era visto il turbo come un aspetto prestazionale legato all'automobile, di ottimizzare il consumo, un po' come successe da fine anni 90 con i turbo diesel, no? Che raggiunsero il loro picco di efficienza. Quindi la tecnologia ci sta portando a un'evoluzione e a un abbassamento di consumo nell'auto che noi possiamo considerare convenzionale, quindi a motore classico. Per quanto riguarda la trazione elettrica, il problema più che dell'auto in sé, che è molto affidabile e senz'altro efficiente sotto il profilo del consumo dell'energia elettrica, è legato chiaramente all'aspetto all'accumulatore? No, è anche dove carichi la macchina. La macchina, io non potrei, perché non avendo il garage io non saprei dove caricare, se non ho la colonnina. Ad esempio, è un problema di struttura, ma qui sì. Più che di automobili stiamo parlando del sistema della mobilità. Il sistema della mobilità, oltre a un certo punto, la casa costruttrice non può più andare perché ha bisogno di un'infrastruttura e quindi serve veramente un balance tra le amministrazioni e i costruttori di questo tipo di auto. La trazione elettrica per la città sarebbe fantastica. Sì, è vero che funziona per esempio in quei servizi, le poste, faccio un esempio, dove uno fa il suo mestiere di consegnare la posta, poi riporta il veicolo nel garage delle poste e lì lo carica fino al giorno successivo, come si fa con i muletti, per capirci. Esatto. Normale azienda, è assolutamente per cui il concetto quello è lo stesso. Ecco. Però tu dici, se non c'è l'infrastruttura, dov'è che facciamo elettricità al posto di benzina, appunto di domanda. Esatto, e lì comunque anche le tecnologie degli accumulatori devono essere perfezionate, questa è un'evoluzione per cui servirà ancora qualche anno. Diciamo che le carte in tavola ci sono, quindi sì. Le ibride, si sta lavorando per questo, ma bisogna andare tradizionali, ecco, però servirà ancora qualche tempo. Comunque il motore tradizionale non muore, dici, no, si va avanti. Silvia Nicolis, buona domenica. Ecco, niente muore, tutto viene conservato e ce lo vediamo, direttrice del museo Nicolis, suo padre Silvia. Sì, sì, buongiorno, era. Sì, mio padre, ecco. Sì, è fondatore. Ecco, perché parliamo di uno dei musei più prestigiosi in Italia e in Europa, proprio di auto d'epoca, ma non soltanto, perché avete anche moto e biciclette, ma era la collezione di suo padre, Silvia? Sì, mio padre diciamo che ha fatto parte di quegli uomini che si sono fatti da soli nel dopoguerra, per cui è nato come imprenditore nel recupero della carta da macero ed ha recuperato tutti quegli oggetti che per altri erano diciamo fuori vita, quindi recuperando automobili, moto, bici, strumenti musicali, macchine fotografiche e molte altre collezioni, ha rimesso, diciamo, ha ridato valore a una collezione oramai unica, come diceva lei, a livello internazionale. Ecco, quindi, tra l'altro, quindi sì, sono oggetti che a volte ha ricevuto senza neanche magari pagare, andare a ritirarli o pagandoli molto meno del loro costo, del loro valore, semplicemente perché sì, la gente voleva liberarsene. Sì, diciamo che io ricordo sempre che soprattutto nel dopoguerra questi oggetti venivano lasciati, diciamo, perché ricordavano comunque la povertà o un periodo poco brillante. In realtà da chi li ha recuperati ed è riuscito a capirne il valore intrinseco ha fatto una grandissima opera culturale a livello, voglio dire, internazionale. Poi ecco una cosa che io amo raccontare, che il nostro museo non è semplicemente un'esposizione statica, ma è un vero viaggio nel tempo, nel motorismo del Novecento. All'interno di 6.000 metri quadri noi raccontiamo proprio non solo l'automobile, ma anche tutto il costume e la società, con testimonianze quali Lancia, Maserati, Bianchi, Ansaldo, Alfa Romeo, Itala o carrozzieri come Castagna, Touring, Zagato, non so, Bertone, e raccontiamo come stile, classe, creatività, ingegno dell'uomo proprio hanno fatto dell'Italia un valore veramente importante in tutto il mondo. Ecco, quindi per noi è importante l'uomo al centro proprio della storia e l'automobile come, come strumento, diciamo, come risultato del, del suo ingegno. Ecco, questa unione ingegneria e arte, no? Come diceva prima Orazio. Grazie Silva Nicolis, io voglio ricordare l'indirizzo internet per avere tutte le informazioni per gli orari. Siamo a Villa Franca, alle porte di Verona, e quindi sul lago di Garda, www.museonicolis.com. Le confesso, Silvia, io ci sono passato davanti 1000 volte e non sono mai entrato, adesso è il caso che io lo faccia. Perfetto, invece. Perfetto, volentierissimo. Grazie ancora. Grazie a voi. Buona domenica. Buona domenica. Grazie, grazie. Il riposo del guerriero. Marco, siccome tu sei anche un appassionato di tuning, cioè di quella messa a punto delle automobili così, per renderle tra virgolette tamarre. Tamarre, prestazionali. Prestazionali, eccola. Io lo faccio apposta perché lo provoco. Senti, andavano di moda le luci blu. C'è stato un periodo in cui io vedevo luci blu dappertutto. Non erano quelle della polizia, erano quelle sotto l'auto, di fianco, dentro, eccetera. Oggi c'è qualcosa che va particolarmente di moda? Perché penso che ci siano dei cicli, dei ricicli, o mi sbaglio? Ma non è così. Sicuramente quel fenomeno che appartiene agli anni 90, alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, ha portato qualcosa nel mondo delle auto di serie. Questo è. È innegabile, perché al di là di quelli che sono i programmi di personalizzazione delle top, quindi delle case auto più raffinate, parliamo delle cose che possiamo permetterci nel mondo reale, ci sono delle tantissime linee di personalizzazione su delle auto che troviamo tutti i giorni. Quindi, ecco, quindi tu puoi oggi acquistare un'auto però chiedendo una personalizzazione, cosa che invece potevi fare soltanto dopo l'acquisto. Esatto. Beh, in questo senso dal 2001 la Mini ha fatto un po' scuola, no? Sì. Quindi ti ricordi che c'era il discorso del tetto, vabbè, loro giocavano facile perché era un loro heritage. Poi dopo è arrivata la 500 con i concetti della personalizzazione, via dicendo, e poco alla volta si sono affacciate altre case automobilistiche che hanno proposto delle auto piccole, tipicamente da città, molto personalizzabili, addirittura in aftermarket. Quindi tu prendi un'automobile, te la fai, facciamo finta, verde con gli interni arancioni, io la prendo dopo di te perché magari l'acquisto usata, non mi piacciono gli interni arancioni, posso cambiarli. Esatto. E questo direttamente dalla casa madre. Esatto, tornando nella concessionaria e comprando gli accessori, un po' come le cover dei cellulari. Sì. E questo è il mondo più sfizioso. Poi ci sono tutte le personalizzazioni dei piccoli SUV, magari quelle per le mamme piuttosto che per le giovani famiglie, che anche quelli permettono di ripersonalizzare l'abitacolo. Spesso lì si parla di una diciamo di una rigenerazione, magari dopo i bambini che ci hanno giocato o quant'altro, però di una ulteriore personalizzazione dell'auto. Quindi diciamo che quell'aspetto così giocoso che fece tendenza, moda ed esiste ancora oggi, che era il tuning, è entrato nel mondo delle case auto e ne è diventato. L'hanno fatto proprio. Sì. Ecco. E scusami, per quanto riguarda i costi. Sì. Non so, è più conveniente, sono equiparabili tra appunto una personalizzazione direttamente dalla casa madre rispetto a una esterna? Sono due cose molto diverse. Nel senso che io una volta, scherzando con un designer di una casa automobilistica tedesca, gli dissi: ma io sono un po' terrorizzato dal fatto che la gente possa scegliere in autonomia i colori, sì, da abbinare, perché immagina fuori per delle strade, cose assurde, cosa potrebbe succedere. Mi fa: no Marco, tranquillo, perché comunque per quanto noi si abbia qualcosa come oltre 500.000, mi sembra, personalizzazioni, combinazioni. Sì, i colori non possono giostarsi più di tanto, quindi questo ovviamente è un limite imposto dalla casa e quindi rendere un obbrobrio l'automobile, perché poi la casa dice: oh, esatto, il tuning quello invece ruspante, sì, è così, è quello, ragazzi, è freestyle, vabbè, è sotto a chi tocca, è bello, e auguri, però, esatto. È bello, è proprio questo freestyle che dici tu. Silvestro Serra, buona domenica. Grazie, buona domenica a voi. Direttore della testata Touring, abbiamo parlato di strade all'inizio, il nostro ascoltatore dice: ah, ma dovete dire che le strade in Italia non sono adeguate, sono piene di buche, non sono, e quindi le auto lì ci perdono. Invece noi vogliamo parlare di strade che si possono fare e che possono soprattutto rappresentare l'Italia. Abbiamo scelto degli itinerari per voi, anzi Serra, li ha scelti lei per noi, perché io non li conosco. Sì, tra i tanti che se ne possono fare, ovviamente. Vedete che il Turi ha inventato i cartelli stradali 100 anni fa, quindi diciamo che siamo sulla strada, abbiamo sempre cercato di dare una mano fin dall'inizio, quindi andare senza avere i cartelli, per esempio, sembra una sciocchezza oltre che le buche. No, ci sono i navigatori oggi, ma comunque non c'erano, ma comunque sì, i cartelli sono fondamentali, è una battuta la mia. No, d'accordo, sì, ovviamente poi a volte il navigatore ti manda altrove. Bisogna saper leggere le mappe, questo è. Bravo, esatto. Allora, al nord qual è l'itinerario? Non abbiamo tanti minuti. Possiamo fare? Guarda, ce ne sono davvero tantissime, basta uscire dalle strade e trovare le famose strade blu, quelle che in America si chiamano strade blu, sì. Però sono disegnate in rosso sulle mappe. Beh, per chi parte da Milano, io consiglio per esempio un bellissimo giro che, seguendo il lago, arriva al lago di Mergozzo, che è un piccolo capolavoro che sta a nord del lago di Como, e poi ci si può inoltrare lungo la Val Grande. È un'esperienza automobilistica molto interessante, sembra di fare un po' in Scozia. Si passano sotto delle gallerie lungo dei burroni, è abbastanza, diciamo, emozionante, e si arriva ovviamente in posto che è la wilderness del nord Italia, dove non c'è nessuno e si può, come dire, avere l'illusione di essere davvero da soli, anzi non si è da soli. Ecco, è bello, quindi perché sicuramente... è un itinerario fuori dalle convenzioni, quindi mi piace. Sì, è nel Parco Nazionale, si chiama Parco Nazionale Val Grande, quindi diciamo. Poi da lì, per esempio, si può prendere la Val Vigenza e tornare al Lago Maggiore, a Cannobbio, quindi diciamo è abbastanza... Un bel giro lungo, sì. Il centro, invece? Il centro, partendo da Roma, io direi di scoprire una zona che mette insieme terme e acqua di mare, vale a dire, se noi partiamo da Roma, facciamo la Aurelia, a un certo punto però lasciamo l'Aurelia, andiamo in un posto poco battuto che invece secondo me è bellissimo, è la zona di Scarlino, sta a sud di Follonica, a nord di Puttala, e ci sono due o tre calette che si chiamano Cala Martina, Cala Violina, perché risuonano la sabbia quando si cammina, e sono delle zone ovviamente a numero chiuso addirittura le spiagge, quindi diciamo che d'estate c'è il problema, adesso ovviamente non c'è nessun problema, si può andare, sono meravigliosamente conservate. È il periodo più giusto. Rientrando verso l'interno, non tanto lontano, si può andare a Buon Convento, ovviamente Monte Alcino, ma fermandoci in Val d'Orcia, in particolare dove sono queste meravigliose terme di Bagnevignone, quindi diciamo riposarsi, parcheggiare la macchina, riposarsi e ovviamente mangiare alla grande in Toscana. Scegliamo invece un itinerario del sud. Del sud vogliamo andare per esempio una cosa molto bella in Sicilia, ecco, sì. Diciamo, quest'anno la Sicilia si porta molto, anche perché non è la solita Sicilia, diciamo, conosciuta, ma ci sono e stanno mettendo a lucido tante altre zone. Io vi consiglio un bellissimo viaggio che, partendo da Palermo in direzione Messina, arriva a Cefalù e poi si inerpica lungo le Madonie, su quello che una volta era il percorso più o meno della Targa Florio, un mito dell'automobilismo fuori strada. E quindi le Madonie sono delle piccole Dolomiti che stanno però vista mare, diciamo, Collesano, Castelbuono, Geraci, Sterlinga, che è un borgo perfetto, bellissimo, assolutamente ben conservato, e poi da lì si riscende verso il mare, Santo Stefano di Camastra, dove si possono vedere e comprare bellissime ceramiche, e poi arrivare a Castel di Tusa, dove c'è questo albergo di Antonio Presti che si chiama Atelier sul Mare, è sul mare, ogni stanza l'ha disegnata un artista diverso, e poi da lì tornare verso Palermo, quindi diciamo un vero e proprio circuito. Ecco, grazie Silvestro Serra. Fra l'altro abbiamo scelto appunto tre itinerari, non è che possiamo scegliere tutta l'Italia, mi spiace per gli altri ascoltatori, ma comunque il touring ovviamente di guide ne ha tante, c'è anche il sito, andate a curiosare, controllate per conoscere posti nuovi e allontanarvi un po' dalle solite strade, perché è così che si conosce l'Italia. Grazie Silvestro Serra, buona prego, domenica. Prego, buon viaggio. Grazie, abbiamo quasi concluso, abbiamo il professor Alberto Broggi, che saluto subito, buona domenica professore. Buongiorno, ecco, a tutti. Con Marco Pascali appunto si discuteva del fatto che ormai l'auto sta cambiando e sta diventando sempre più intelligente, sicuramente più di noi autisti, mi sbaglio professore? Assolutamente sì, questo è verissimo. Stiamo installando sensori a più non posso, elettronica a più non posso sul veicolo. Ecco, tutta questa tecnologia un po' mi spaventa, perché se la batteria va a terra cosa succede? L'auto non funziona. Rimaniamo fermi come adesso. Esatto. Ci sarà un sensore anche no, per No, sto scherzando. Esatto, che contrastea stai per... No, perché è vero, tutto tecnologicamente controllato, poi se salta una scheda... Cosa dobbiamo fare? Non lo so, un po' mi spaventa questa cosa. Io amo la meccanica antica, cioè quella dove posso mettere le mani, no? Perché sull'elettronica le mani non le posso mettere, no? Sì, è vero, ma l'obiettivo è fare come negli aerei adesso, avere tutto ridondante, cioè doppia copia di tutto. Ma davvero? Si sta arrivando a quello? Sicuramente se una cosa si rompe, beh, c'è sicuramente quell'altro che rimpiazza o comunque avverte che si è rotto qualche cosa. Sì, ecco. E dov'è? Come sarà la mobilità del futuro allora? Cos'è che dobbiamo aspettarci davvero? Ma diciamo che con la tecnologia che stiamo sviluppando adesso, che tutte le case automobilistiche stanno sviluppando, si cambierà completamente la mobilità, completamente, nel giro di, diciamo, qualcuno dice 20 anni, qualcuno dice 30 anni, potrebbe essere che il veicolo guida da solo, non c'è bisogno più del pilota, sono solamente passeggeri quelli che sono a bordo, quindi una specie di salotto a bordo, e il veicolo va dove si definisce la destinazione. E poi magari una volta raggiunta la destinazione le persone scendono, il veicolo rimane ad esempio o si va a parcheggiare da solo oppure può essere disponibile per un'altra persona. E questo porterà una rivoluzione tremenda alla mobilità. Io rido perché non ci credo. Beh, no, è chic, no, ma no, non ci cioè credo. Tu arrivi e l'auto si parcheggia da sola. No, appunto, rido perché non ci credo. Cioè, so che è possibilissimo. Cioè, adesso lo fa l'aspirapolvere e quindi lo farà prima o poi anche l'automobile. Ecco, ma professore, mi scusi se rido, se sorrido, non è che rido, ma perché è talmente incredibile e dal mio punto di vista piacevole, perché io amo queste cose, e che non mi sembra vero, no? Mi piacerebbe vederlo domani, no? Questo. Tra poco facciamo una sperimentazione noi. Ecco, ma le strade devono essere tecnologicamente infrastrutturate per poter permettere questo o no? O è indipendente? Sì, si dice di sì, cioè, le strade deve essere intelligente, anche l'infrastruttura deve essere intelligente, in modo tale che comunichi col veicolo. Perché io quello è l'aspetto che vedo più difficile, non tanto l'auto in sé, no? Mi spiego. Prima si pensa di fare girare questi veicoli automatici su strade, ad esempio autostrade, cioè strade abbastanza strutturate, in cui ad esempio si potrebbe ricavare una corsia solo per i veicoli automatici. E poi man mano che il tempo passa si potrebbe aumentare a 2 corsie, poi magari anche a 3 corsie, in modo tale da spingere la popolazione a spostarsi verso il veicolo automatico. Quindi prima pensiamo soltanto alla mobilità automatica su autostrada, poi un giorno magari arriveremo anche alla mobilità urbana in modo automatico. Questo ci vuole sicuramente molto più tempo, perché l'ambiente urbano è difficile. Comunque, comunque la direzione in cui si sta andando nella ricerca, nella costruzione, è quella. Assolutamente, assolutamente. Ormai case automobilistiche, supplier di case automobilistiche, centri di ricerca, stanno tutti lavorando per la guida automatica, che vuol dire mettere sensori sul veicolo, tanti sensori, in modo tale che il veicolo capisce che cosa ha intorno, capisce che di fronte c'è una bicicletta, c'è un pedone che sta per attraversare e poi decide le manovre da fare. Ecco, certo che però Marco, non so, la guida normale resterà sempre, perché il piacere anche di guidare, cosa succede? Devo andare sul circuito poi a guidare. Sì, esattamente, c'è una parte di me che insomma, di tutti penso, che è un po' allergico a tutta questa automazione. D'altro canto è estremamente pratica, comoda e sicura, quindi questo è il futuro ed è insomma, potrebbe essere una realtà. È chiaro che tutto il resto del mondo legato all'emozione, quindi alla guida, al comando, al controllo, che poi è quello che in realtà lega da sempre l'uomo e l'auto, la sfida alla velocità, insomma, il tempo sul giro, c'è una mitologia, usciranno dei film a fine anno, ne sono già usciti in passato, Le Mans, insomma... Sono due mondi, esatto. Professore, lei come la vede questo aspetto? Ma io penso che nel futuro ci saranno solo veicoli automatici, non so dire quando, magari tra 20 va anni, bene, tra 20 okay. anni. Solo veicoli automatici, e chi vorrà guidare andrà in circuito, ci sarà qualche tipo parco a tema, allora io entro, pago il biglietto, posso guidare la mia macchina. No, parco a tema però è terribile come definizione, chiamiamoli circuiti per andare forte. No, lui divertirsi. Dice no, parco a tema perché uno può anche voler andare piano bottita. Invece e girare nelle stradine, perché non potrà fare più automaticamente, cioè deve fare automaticamente, lì lo potrà fare ancora manualmente, magari con delle auto d'epoca che sono quelle nostre oggi. Professore, mi ha aperto un mondo, io sono curioso, se farete una prova mi inviti che vengo a vederla. A brevissimo. Grazie, buona domenica. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Quindi come concludiamo, Marco, secondo che te? Qui il rischio, che poi in realtà è una quasi certezza, è che tra 6 anni, no, 6 no, però 20 anni ci troveremo, tu mi chiederai della mia auto, ma cosa fa e non quanto fa. Io ti risponderò che nel frattempo c'è sempre una di scorta in pista da usare. Ecco, quindi tu dici che ormai si sta andando verso quello che dicevi, è il mondo degli smartphone, sì, cioè la gente si chiederà che cosa fa, quali sono le sue prestazioni da un punto di vista della sicurezza e di quello che fa proprio, e non più invece cavalli, cilindrata, velocità, non questo aspetto. Esatto, e l'argomento guida e l'argomento trasporto saranno molto slegati. E è innegabile che guidare sia una delle cose più divertenti per le persone a cui piace questo tipo di attività. È innegabile che non c'è niente di sexy ad aspettare 20 minuti il semaforo sotto l'acqua d'inverno e col volante in mano e ad arrabbiarsi nel traffico. Ci si può intrattenere nel frattempo mentre l'auto fa. Sì, perché poi la mobilità deve essere di tutti, questo è il senso. Invece il piacere della guida, quello è di alcuni, è una cosa personale. Per cui ci saranno degli strumenti sempre più sofisticati e sempre più belli. L'evoluzione dell'auto in questo senso non si può. Non so se sai rispondermi. Oggi le persone che vanno dal concessionario a chiedere un'automobile, è normale, se ne parlano, non sono di supercar, che cosa chiede? Qual è la prima cosa che chiede o che guarda? È difficilissimo rispondere a questa domanda, perché in realtà le ragioni di acquisto dell'auto sono di pura sostituzione e in quel caso è molto forte l'aspetto economico, in altri casi è molto importante un aspetto sociale, di riconoscibilità, in altri casi ancora è importante. Comunque la cilindrata meno, cavalli, prestazioni da quel punto di vista. Purtroppo la supertassa che hanno introdotto mesi fa non ha favorito le auto potenti, che invece fino a soltanto 4 anni fa erano insomma molto considerate. Di sicuro l'infotainment, un certo tipo di prestazione mixata al risparmio di carburante piace molto, perché è visto e letto come un aspetto tecnologico. Un'attenzione, quindi, all'ambiente. Attenzione all'ambiente da un lato, però piacevolezza di guida. E poi anche un tocco di sportività, sotto gli occhi di tutti, anche dei SUV che in passato sono state auto ingombranti, sempre di più si stanno affinando, stanno cominciando ad apparire dei particolari aerodinamici che ne aggraziano le forme e le rendono sempre un po' sportive, no? Quindi comunque questo lato molto passionale con l'auto resta, e anche questo è e sarà sempre presente. Devono ancora toccare il cuore, ovviamente, se no non finché le si guida, sì. Ecco. Va bene, grazie Marco Pascali, davvero ci leggeremo su TalkGear, poi tu hai anche il tuo profilo Facebook, lo trovate su internet, anche forse il profilo ma YouTube. Ma soprattutto vero? Il giornale, sicuramente, insomma, che è un giornale sei recuperabile. Volevo ricordare che Francesca Dragotto, il suo intervento, sarà su tuttopoli.com, visto che non siamo riusciti a sentirla oggi. Continuiamo a parlare di automobili, comunque, anche nel nostro momento giochi e videogiochi, poi il gastronauta e i biglietti per la mostra di Manet a Venezia. Il riposo del guerriero. 11:37 minuti, è il momento di giocare con le automobili, perché si può anche con la massima sicurezza divertirsi su grandi auto. Giochi e videogiochi. Intanto, per quanto riguarda i giochi, voglio ricordarvi che su ludologo.com, che è il sito del nostro Andrea Ligabue, il nostro ludologo, trovate l'intervento di oggi dove si parla di giochi in scatola, con i giochi da tavolo legati al mondo delle auto, tra cui anche un gioco proprio della Lamborghini di cui abbiamo parlato oggi e poi uno sulla Mille Miglia, quindi ci sono diversi titoli legati proprio al mondo che abbiamo visto oggi, però ci sono anche videogiochi che ben si sposano con le auto. Emilio Cozzi, ciao giornalista, buona domenica. Buona domenica a voi, ciao Stefano, a tutti gli ascoltatori. Allora, io non so che tipo di autista sei uno della domenica, un autista grande appassionato o solo videogiocatore autista? Diciamo che sono della domenica, perché del resto mi limito a essere pendolare la mattina e la sera e questo non mi fa certo un grande e abile guidatore. Allora, per quanto riguarda i videogiochi, come possiamo divertirci con le automobili? Ma possiamo divertirci tantissimo, anzitutto perché l'automobile è protagonista del settore videoludico da quasi 40 anni. Tu pensi che il primo videogioco Gran Trek 10 era del 74, quindi di strada ne è stata fatta molta, letteralmente. In questo momento, tra l'altro, come dire, il settore ribolle, perché fra pochi giorni verrà annunciato molto probabilmente Gran Turismo 6, è uno dei titoli più noti del settore, lo sviluppa Polyphony Digital, un'azienda giapponese che dal 98 ha questo brand e lo pubblicherà per Sony. Pare che uscirà uscirà a mesi, e il suo diretto contendente, cioè Forza Motorsport 5, sono due giochi appunto di simulazione, attraverso i quali però anche chi, come dire, non abbia e non voglia avere un approccio seriosissimo alla guida può divertirsi molto. È attesissimo anche il gioco dedicato alla Formula 1, quello ufficiale, che uscirà, dovrebbe uscire nella seconda metà di settembre per Codemasters, anche se in questo momento non si sa molto, pare che ci saranno delle novità grandiose anche per i fanatici della Formula 1. Ecco, tra l'altro voglio dire che i giochi legati al mondo delle auto, il loro fascino sta anche nel fatto che la grafica oggi è talmente curata, talmente precisa, che ti fanno veramente rivivere l'emozione di essere dentro quell'auto, davvero. Per cui insomma, uno che, cioè, la maggioranza non se le può permettere, però è un modo per potersela permettere, almeno nel salotto di casa. Ecco, questo è assolutamente vero, perché, come dire, uno dei tanti aspetti del videogioco, forse il più curioso, è quello di permettere all'utente, al giocatore, di, come dire, appropriarsi di vita ed esperienze che nella realtà non potrebbe mai avere. E si vede particolarmente, questa cosa è particolarmente vera proprio nei videogiochi di corsa, tanto che tu mi dai un assist perfetto, perché tra l'altro colgo l'occasione per sottolineare un'eccellenza italiana. Intanto abbiamo la Milestone, che è una software house italiana specializzata in racing game, che è l'unica software house grossissima a livello internazionale che abbia sede in Italia. In questo momento fuori due giochi, World Rally Championship 3 e World Rally Championship Power Slide, il primo più simulativo, il secondo invece con un approccio più arcade, diciamo per divertirsi senza impazzire in mille ore di addestramento e di prove su pista. Ma la cosa più interessante dal mio punto di vista è che c'è una comunità italiana che è estremamente effervescente e in espansione, raccolta attorno a un portale che si chiama simracingzone.net. Si tratta in questo caso di simulatori professionali, software come R-Factor o GTR, come Netcar Pro, e di sim driver, cioè guidatori veri, che hanno un approccio simulativo di estrema verosimiglianza alla realtà, tanto che, e questo è un caso eccezionale ed estremamente curioso, ci sono delle proprie scuderie che relative a questo gioco. Ce n'è una, la SRZ Motorsport, che ha avuto un'ottima idea, ci ha preso il miglior sim driver italiano degli ultimi anni, tale David Greco, che ha vinto 3 campionati di fila, e l'ha messo su una macchina vera, una Predator, in un campionato che è la Formula Promotion. Ebbene, le prime due gare con un sim driver hanno visto David Greco piazzarsi la prima volta primo e la seconda volta secondo, e credo che questo dica molto della, come dire, della verosimiglianza, della professionalità a cui sono arrivati questi simulatori. Ormai ci si avvicina sempre di più. Fra l'altro hai citato Milestone, e faremo poi uno speciale proprio su MotoGP che verrà presentato a giugno e che riguarda questa volta non le quattro ma le due ruote. Grazie Emilio Cozzi, ti leggeremo su Sole 24 Ore, buona domenica, ciao. Molto volentieri, buona giornata, ciao. Montasio, il formaggio DOP a 4 stagionature, vi presenta le suggestioni del gastronauta. Io ho preparato il bavaglino. Davide Paolini, ciao. Sai il vecchio bavaglino per non sporcarsi di sugo? Perché so già cosa mi racconterai, cioè mi farai venire la colina in bocca come al solito. Ma guarda, io prendo spunto dalla tua trasmissione, sì, perché è intervenuto a un certo punto Gioacchino Campora, sì, e devi sapere che è coproduttore ogni anno verso Natale di un panettone straordinario, forse uno dei migliori che io abbia mai mangiato quest'anno, quindi oltre a fare delle macchine straordinarie è anche coproduttore, perché durante l'anno prepara il lievito madre, che poi lo dà a una pasticceria, e prepara dei panettoni straordinari, quindi mi è venuto in mente mentre stava parlando. Però le suggestioni che ti voglio fare, vorrei partire da Oro Nero. Cos'è Oro Nero? Chissà cosa si può immaginare una persona che sente questo nome. È niente meno che un semplice formaggio. È un formaggio della famiglia Gennari, che è un'azienda agricola che addirittura ha 1500 capi, quindi diciamo che produce tutto dall'inizio alla fine, filiera completa di parmigiano reggiano. Però si è inventato un formaggio che non è parmigiano, perché non ha l'età per essere parmigiano, al massimo 9 mesi. È un formaggio comunque che da piluccare, come dicono loro, e che si può sia utilizzare da aperitivo oppure anche da tutto pasto, oppure fare anche delle ricette. Quindi questo Oro Nero, appunto, che è della famiglia, chiamiamolo così, del parmigiano reggiano, è una grande novità che è entrata da pochissimo sul mercato. E la mia seconda suggestione riguarda un locale di Milano che è all'ottavo piano, in piazza 5 Giornate, sopra la Coin e Globe, È difficile, perché lo cito, perché è difficile trovare in Italia un ristorante sopra un centro commerciale, addirittura all'ottavo piano, dove è curata la cucina, perché addirittura il pane e la pasta e altri prodotti sono veramente fatti in cucina direttamente, quindi non arrivano da terzi. E c'è un'attenzione in questo ristorante soprattutto alle materie prime, con un menù molto, molto vasto, molto variegato, e che alla domenica, come oggi, diciamo, termina con un grande brunch che dura quasi tutta la giornata. Quindi un locale di vista su Milano, non è una bellissima vista perché la zona delle cinque giornate non è, però si vede una parte di Milano, perché è giusto vederla tutta, non è quella bellissima. Quindi lo ripeto, Globe in piazza Cinque Giornate. Dulcis in fondo, ti parlo di un ristorante molto interessante a Miramare di Rimini, che si chiama Guido. Le peculiarità di Guido sono diverse, tra cui Rimini è nota per essere sempre preda di turisti e di avere anche tantissimi locali turistici con i soliti piatti a base di piadina e magari di grandi fritture, di grandi grigliate. Qui invece c'è un menù molto, molto particolare. Innanzitutto non c'è grande distinzione tra antipasti primi e secondi, ma c'è una cura particolare ovviamente al pesce, ma al pesce locale. E ho mangiato un crudo di riva, come lo chiamano loro, che non è il solito crudo sushi con tonno e i soliti pesci che si trovano ovunque. Sono pesci della giornata, e quindi può capitare lo sgombro, la gallinella o tanti altri pesci, però pesci veramente locali, sfilettati, e qui sta il difficile, anche sfilettare una triglia, servirla cruda, insomma, non è cosa semplice, e loro ci riescono benissimo, sono due fratelli, uno in cucina e uno in sala. E un altro piatto davvero che mi ha colpito sono i capelletti alle poveracce, o le pavrasi, come si dice in Romagna, che sono, diciamo, dei mitili che si assomigliano molto alle vongole, però cioè, sono di una peculiarità particolare, che si trova appunto in Adriatico, e Rimini è un po' la capitale delle poveracce. E poi, ecco, la cosa curiosa, originale, lo ammetto, non avevo mai mangiato uno spaghetto alle ostriche. Bene, non è un pesce locale ovviamente, però c'è cura anche di scelta di questo delle ostriche, e devo dire che questa combinazione del caldo dello spaghetto che si fonde con questa ostrica cruda crea una cosa che è abbastanza armonica. Può sembrare, invece, magari sentirne parlare di questo piatto può sembrare stridente, non lo è assolutamente. Bene, poi la lista dei pesci sicuramente è veramente molto molto vasta, si passa anche dai bianchetti, quindi si possono mangiare anche altri tipi di pesce, però sempre rimanendo in locale, come dicevo, con l'eccezione delle ostriche. Bene, si beve bene e a un prezzo abbastanza anche corretto, devo dire. Quindi lo ripeto, Guido, Miramare di Rimini, però è attaccato a Rimini, diciamo, è lungo il lungomare che porta poi a Riccione. Bene, io ho finito le mie suggestioni e lascio alle tue. Grazie Davide Porini, ci sentiamo con altre suggestioni poi domenica prossima, a parte sabato, poi con il tuo programma Il Gastronauta. Buona domenica, ciao. Buona domenica anche a voi. Manè in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa i biglietti per la mostra Palazzo Ducale fino al 18 agosto, Manè Ritorno a Venezia, ammesso che riusciate a rispondere alla domanda che vi faccio, e che la risposta è legata alla canzone che vi faccio ascoltare. In questo caso io vorrei sapere quale critica tra le tante è stata mossa a Colazione sull'erba di Manè. C'è stata una critica feroce che è stata mossa su questa opera di Manè, appunto, e la risposta è nascosta in questa canzone. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Questo Questo è Battiato di Prospettiva Agnieszki, il viale di San Pietroburgo, famosissimo, ma che insomma, la canzone nasconde la risposta alla domanda. Per giocare 800 24 00 24, c'è Roberta da Modena. Ciao Roberta. Ciao. Patria delle automobili, abbiamo sentito anche oggi nella puntata. Sì. Tanto mi fanno così notare che c'è un autogrill che ha anche le colonnine sulla Milano Laghia, la Inate. C'è un autogrill nuovo dove ci sono anche le colonnine per la ricarica dei motori elettrici, è vero, ma insomma uno poi non è che può passare di lì per forza per ricaricarsi, insomma. Abbiamo il problema delle infrastrutture, vedremo come andrà a finire. Allora, torniamo invece al nostro gioco, Roberta, e qual è la risposta secondo te? Cos'è una delle critiche che venne fatta a Colazione sull'erba di Manet? Ma intendi dire chi è il critico o il contenuto? No, il contenuto, sì, gli dissero che era estremamente immorale perché erano donne nude e pareva che fossero, diciamo, signorine facili. Ecco, sì, perché le usava come modelle, ma il senso, cioè un'altra critica, quella è una delle tante, sì. Ma ce n'è una in particolare sulla tecnica proprio, che è legata alla canzone che ho fatto ascoltare io. E qual è la critica? Che non fosse corretta la prospettiva? Non era così difficile. Ah sì, è proprio quella la prospettiva che insomma non era corretta per niente e quindi venne molto bistrattato quel quadro e criticato. Poi abbiamo visto però le cose come sono andate. Davvero per te biglietti per l'ingresso alla mostra di Venezia, complimenti, ciao Roberta. Ciao, grazie. Buona domenica. Mattea da Monza. Sì, buongiorno. Ciao Mattea, ti faccio sentire una canzone e la domanda è il titolo di un'opera di Manet e ti garantisco anche questa volta la risposta è molto molto facile. Stai attento alla canzone. In guerra tutti i giorni sono viva, sono come piace a te. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Allora Mattea, questa canzone l'hai riconosciuta sicuramente, no? Sì, la ecco. Di Mina. Mina, grande, grande, grande. Allora, c'è il titolo di un'opera di Manet, semplicissimo, che riguarda qualcosa che ha a che fare con Venezia, proprio. E come può essere il titolo di quest'opera? Con Venezia. Sì, lui ha ritratto qualcosa di Venezia e che ha a che fare con la canzone che ti ho appena fatto ascoltare. Che cos'è che può avere dipinto Manet? Canal Grande? Il Canal Grande. Ed è quella la risposta giusta. Brava Mattea, ti ho detto che era facile. Buona domenica, ciao. Grazie, ciao. Grazie, grazie. Abbiamo finito con il riposo del guerriero, ma il gioco torna poi la settimana prossima. Altra domanda legata a una canzone che vi farò ascoltare. Auguri a tutte le mamme, visto che oggi è la festa della mamma. Non te lo ricordavi, Filippo, lo so benissimo, te l'ho ricordato io, l'ho fatto apposta. Intanto ti saluto, grazie per la regia. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Benedetta Acri. A voi tutti, buona settimana. Ci sentiamo domenica prossima.